15 metri di profondità, rinsacca il mare di bianca voluta, a 30 metri di profondità, riluce il lampo, proietta un laccio e lo disegna infine più in là. Corallo sommerso, grigio l'immerso, nel buio la luna, lo spazio l'universo e la vaga impressione che spiri crescendo, un errore disperso, che spiri crescendo, un errore disperso. Raccoglie il vento una rada vilta, a 30 metri di profondità, non riconosco più le mie volontà. A 30 metri di profondità, ho fatto il conto di quanto è vanità. Il fondo non ha. L'anima mia è un sogno evanescente, non dà mai niente, rincorre ciò che dà. L'anima mia è un sogno evanescente, non dà mai niente, rincorre ciò che dà. Come il fiore più raro, corallo sommerso, grigio l'immerso, nel buio la luna, lo spazio l'universo e la vaga impressione che spiri crescendo.